nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica e bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma che parla di donne perfette, imperfette e dei loro problemi di lavoro e non solo. Un problema che è un po' correlato al lavoro, ma molto alla nostra vita privata, è quello che è stato di recente esaminato in un saggio appena pubblicato negli Stati Uniti dall'economista John Berger. Il saggio si intitola How Dating Became a Lopsided Numbers Game, che sarebbe come la cultura degli appuntamenti è diventato un gioco di numeri sfavorevole, per le donne soprattutto. L'assunto di questo saggio è che le laureate americane si lamentano e sono single perché non scelgono dei partner, dei compagni che abbiano un'istruzione più modesta di quella che sono riuscite ad avere loro. Di questo passo, prevede John Berger, avremo metropoli popolate da donne single e campagne abitate da agricoltori single, pure loro, perché appunto i maschi americani all'università non ci vanno. Mi piacerebbe proprio sapere cosa pensa di questa previsione il nostro agente provocatore di questa domenica. Un fine intellettuale, un uomo che sa far sorridere, anzi ridere fino alle lacrime, come mi succede quando vado a vederlo a teatro, ma che è appunto pratica un umorismo di testa, è un intellettuale e pare che i maschi intellettuali siano destinati alla sparizione. Joelle Dix, benvenuto a Nessuna è Perfetta. Buongiorno, buongiorno. Buona Maria. Domenica. Buona domenica a voi. Allora, mentre a teatro sarà fino al 20 dicembre con Il malato immaginario di Molière per la regia di André Ruth Chammat, il pubblico, lo sappiamo, è molto, molto femminile, e tra un po' diventa molto femminile anche il pubblico delle università. Secondo il Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti, nel 2023 le laureate saranno il 47% in più rispetto ai maschi laureati. Sì, anche perché voi siete più brave e costanti, quindi vi iscrivete e finite l'università, molti uomini invece la abbandonano prima. Come ci si sente a essere così, l'ultimo maschio intellettuale? No, per carità, io non sono poi così intellettuale, diciamo che ho sempre letto grazie al fatto che mi hanno fatto leggere, sia mio padre che mia madre, che soprattutto era la pusher di libri in casa, quindi lo devo soprattutto a questa abitudine malsana di leggere, e poi certo sono un po' attento alle cose. Comunque io trovo che il fatto che le donne siano diventate più esigenti è un bene, perché ce ne sono ancora tante che si accontentano un po' troppo, no? Fin troppo, basta vedere la cronaca continua, che sono un sacco di donne che si prendono dei maschi indecenti, quindi insomma che le donne diventino più esigenti mi sembra un buon segno. Se poi questo significa che le campagne saranno piene di uomini soli che vagano, peggio per loro. Che si istruiscano, tu dici. Che si istruiscano prima di tutto. Poi sì, io sono sempre rimasto colpito da questa cosa, sentivo dire da quando ero ragazzino che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, no? Però più di recente ho capito che non si dice un'altra verità, che la donna che è dietro al grande uomo lo osserva e scuote la testa. Questo è di solito c'è questo atteggiamento poco convinto di quella che esatto, di quella per che... cui insomma forse giù la maschera, finalmente anche un sacco di uomini e donne che sono messi insieme, cioè che ci si scelga un pochino di più con un pochino più di attenzione, non è un male. Certo, se le donne hanno delle attese troppo alte bisogna anche dire che non sono troppo pretenziose queste laureate con splendidi lavori che si guardano intorno e dicono ma non c'è nessuno che possa stare al mio fianco. Sì, è sicuramente un eccesso, anche perché comunque gli uomini quando poi sono messi alla prova non sono mica così male, per esempio gli uomini che cucinano sono forti. Io conosco anche molti uomini che sanno stirare molto egregiamente, quindi insomma bisogna anche metterli un po' alla prova. Gli uomini nel frattempo secondo me sono un po' cambiati, un po' torto collo, però l'hanno fatto, quindi forse è anche un po' un problema di pigrizia, bisogna Certo, capisco che l'idraulico attiri meno la laureata che avrebbe più il laureato ad Harvard, però con la difficoltà che si fa a trovare gli idraulici, io invece me lo terrei da conto. Magari si mette in rete questo idraulico con altre signore, insomma, si dice, vabbè, intanto teniamolo fermo in maniera che lo troviamo quando serve. Ma io devo dire che sono comunque convinto che queste tendenze, che naturalmente in America vengono sempre esasperate, no? Sono comunque interessanti e segno di un cambiamento che non è male. Io continuo a sostenerlo, pur essendo un uomo che può avere sofferto nella crescita questo sballamento, cioè di non essere più, di non avere più il modello così chiaro e sicuro di padri, di nonni che avevamo, no? Doverlo un po' ridiscutere. Però tutto questo a me ha fatto solo bene, tutto sommato, mi ha fatto migliorare, per cui... Ma la teoria del man deficit, del deficit del maschio, a Joelle Dix, che si diverte anche a giocare con le parole, potrebbe ispirare magari un gioco teatrale? Assolutamente, sì. Ma devo dire che l'uomo ha sempre questa difficoltà, che io vedo anche su di me, che io ho già più volte raccontato anche ironicamente, con ferocia, perché poi l'ironia deve partire da una certa ferocia anche verso se stessi. Per esempio questa cosa che è diventata un luogo comune, ma che, come diceva Aristotele, cioè i luoghi comuni sono là, è là dove sono le cose, quindi hanno un fondamento più che... Il fatto che gli uomini non riescano a fare più di una cosa contemporaneamente, io la vedo su di me, e questo deficit c'è, insomma, quindi piano piano noi stiamo imparando a fare un paio di cose o tre addirittura, non dico contemporaneamente ma nella stessa giornata, e quindi io il cambiamento lo vedo, però il deficit c'è. Qual è la cosa che adesso Joelle Dix riesce a fare in contemporanea, se si può sapere, farne due o tre, quali sono? Riesco a parlare con te e pensare, per esempio. Che caspita, non sarà troppo? No, ma infatti adesso, finita questa telefonata, io mi ritraio esausto. Oh, quindi sei il nostro testimonial, perché questa trasmissione combatte in solitaria una battaglia contro il multitasking che noi donne abbiamo gioiosamente imbracciato senza accorgerci che era un'enorme fregatura. Ma Joelle Dix ci conferma che è una fregatura, e quindi mentre ti salutiamo e ti auguriamo una buona domenica, ti mandiamo serenamente a distenderti sul divano, perché è già stata dura questa conversazione. Assolutamente, sono veramente distrutto. Ti salutiamo. Se mi volete richiamare, no, ma ti verremo a vedere a teatro con il malato immaginario di Molière, perché mi sembra che tu sia già molto nella parte del malato. Grazie a Joelle Dix per essere stato con noi a Nessuna è Perfetta. Buona domenica a lui. Noi ci ritroviamo tra pochi secondi. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Come sapete, adesso è il momento della nostra Sunday Girl, che questa domenica è una delle più amate protagoniste della TV. Ma che dico? Della radio? Ma che dico? Della narrativa? Col nostro agente provocatore parlavamo appunto di donne laureate che restano single perché non si accontentano. E chi poteva essere la nostra Sunday Girl della settimana se non una donna, una comedian, come dicono gli inglesi, una conduttrice che proprio della singletudine e del rapporto uomo-donna ha fatto il suo primo cavallo di battaglia. Insomma, benvenuta Luciana Littizzetto. Ciao, grazie, ma come sei brava con l'inglese, io vengo a prendere lezioni da te, io parlo in inglese peggio di Renzi, invece tu impossibile, hai questa scioltezza. Impossibile, no. E comunque, nessuna è perfetta, è imperfetta anche nelle lezioni d'inglese, però ci possiamo mettere d'accordo, prezzi modici, eh? Prezzi... Sì, sì, sì, guarda, o te o Mica, devo decidere, perché... Beh, Mica c'ha una... Mica. Tra l'altro, appunto, tra le mille cose che fa Luciana Littizzetto, che è la protagonista vivente, la smentita vivente del tema che noi sosteniamo, nessuno è perfetta, no? La colonna portante di questo programma è la battaglia contro il multitasking, che noi consideriamo una fregatura, ma tu sei la personificazione del multitasking, perché la domenica sei a Che tempo che fa? Poi sei con Claudio Bisio, Frank Matano e Nina Zilli. Il sabato sono alla radio, Radio DJ, non cioè, so se si possa nominare. Sì. Però sì, sì, e poi a casa, e soprattutto a casa che uno è multitasking, perché mentre gira il sugo scrive il pezzo per la domenica, fa una telefonata alla latella e risponde al citofono. Robe lì. Allora noi siamo la personificazione vivente di chi predica bene e razzola male, sì, Luciana. Sì. Ma no, ma anche perché dicono che la questione delle donne, il cervello delle donne sia diverso da quello degli uomini, perché noi ce l'abbiamo più grosso, quello. Non il cervello dei maschi è più grosso, ma noi abbiamo quella specie di connessione tra un emisfero e l'altro, il corpo calloso, che è più grande, e questo significa che le connessioni tra i neuroni sono più veloci e quindi possiamo pensare più pensieri contemporaneamente e dire tutto il contrario di tutto nello stesso momento, ecco perché li spiazziamo. Siamo gli uomini. Ma tu sei d'accordo che però è una fregatura, perché nel mentre ci pretendono lì a preparare il ragù della domenica e insieme a organizzare l'agenda professionale di tutta la settimana, perché il lunedì è già lì che incombe, e poi però vogliamo anche andare al cinema al pomeriggio. Sì, sì, è uno sfiancamento, cioè arrivi alla sera e sei rovinata. Non ne puoi più, ma poi me ne rendo conto io al sabato che mi sveglio all'alba, vado a fare la radio in diretta, poi esco, vado a fare la spesa, torno a casa, preparo un po' da mangiare, poi finita quella cosa lì mangio, poi dopo preparo, studio il pezzo, lo metto a posto, poi dico mi rimane un'ora, voglio andare al cinema, in fretta al cinema, poi torno a casa, la cena, poi i figli che escono al sabato sera devo aspettarli fino a notte fonda. Come fai a rimanere sveglia? Cioè se ti sei svegliata al mattino come ti tiri su? Mi drogo, ma non è che mi drogo, però devo produrre delle robe dentro, perché non è possibile. Poi cuore di mamma, sei lì che aspetti perché sei preoccupata, quindi non dormi in realtà. Il multitasking, dillo con me, è una fregatura. È una fregatura. Oh. Però non ne possiamo fare a meno, ormai siamo diventate quella cosa lì. Ci siamo autofregate. Siamo come il bimbi, sai che trita, frulla, sì. Cuoce, centrifuga, fa il gelato, quella roba lì. Ecco, siamo la donna bimbi. Siamo la donna bimbi. Bimbi no. L'elettrodomestico. Si capisce che io con gli elettrodomestici non ho una grande, non ho una grande frequentazione, che forse non ne ho mai visto uno in vita mia. Tu non sei una che fa cucina in casa, fabbriche, furca, no? Multitasking sì, ma mi sono posta dei limiti e forse per la cucina italiana va bene così. Senti, tu sei diplomata in pianoforte al conservatorio, laureata in lettere. Se la teoria dell'economista che abbiamo citato prima, cioè Jon Birger, che ha scritto appunto come la cultura degli appuntamenti è diventato un gioco di numeri sfavorevole, ecco, se la teoria fosse giusta, tu potresti essere sposata solo con un illustre professore di Harvard o almeno un direttore d'orchestra. No, figurati, sono sposata con un batterista di Pinicio Capossela. No, non sono sposata neanche, sono fidanzata ormai da tanto tempo, no, con un musicista, quindi figurati, assolutamente smentisco la teoria. Però è vero, sì, è vero, cioè che tu arrivi a un certo punto che pretendi tanto, pretendi sempre di più, perché appunto tu sei così performante che pretendi la performance anche dall'altra parte. Ma il punto è che così costruita la dimensione, il rapporto paritario tra donne laureate e maschi laureati negli Stati Uniti sta peggiorando per quanto riguarda gli uomini in maniera catastrofica, per cui l'immagine è quella di un mondo in cui ci saranno un sacco di donne laureate single e un sacco di maschi non laureati e single pure loro. Ma guarda, però è vero che soprattutto ad una certa età le donne fanno tranquillamente a meno dei maschi. Lo dicevo proprio l'altra domenica, no? Parlando di questa nuova pastiglia che si chiama Prostamol. Parlavo della pastiglia, quella, il pastiglia Viagra rosa, che le danno, sì, le danno le donne per rinverdire il desiderio, le donne dopo i 50 anni, che, e che a un certo punto, se tu non trovi una, come dire, una sintonia di pensieri con l'altra persona, magari la trovi con le tue amiche, no? Quindi ti diverti di più, il più delle volte, ad uscire con le tue amiche, andare al cinema, farti il weekend e vedere le capitali europee, andare a vedere delle mostre, che non a stare con il tuo boyfriend. Però quando hai 30-35 anni, insomma... quello sì, però tu guarda le studentesse, guarda la quantità di ragazze che vanno all'estero, che studiano, che si sbattono, che imparano, e guarda i maschi, molto meno. Cioè c'è stata un'emancipazione culturale delle donne molto più potente rispetto agli uomini, e poi appunto le donne, essendo multitasking, piene di idee, di pensieri, di cose da fare, di interessi, di curiosità, riescono a fare molto di più rispetto ai maschi della loro età. Ma l'unica speranza per le single è l'uomo cuscino, come scrivevi nel libro Col cavolo? Sì, ma no. Spiegalo un po', l'uomo cuscino. Che però questo poi ci porta a essere anche un po' tanto tignose, no? A pretendere sempre tanto, troppo, troppissimo. E invece l'amore è anche proprio relazione spontanea, no? Che cioè, c'è di mezzo la pancia, le trippa, la trippa, le budella, quella roba lì che nel cervello lo metto un po' da parte, ecco. Invece noi abbiamo tutto questo sempre cervello, sempre in moto, dobbiamo parlare, parliamo. Che cacchio parli, stai zitta, goditela, no? Quindi infatti tante donne arrivate ad una certa età si fidanzano con ragazzi molto più giovani. Ma anche lì poi ci sono tutta una serie di problematiche. Se... come dici tu nel tuo libro, sola come un gambo di sedano, gli uomini per noi single un po' frollate, scrivevi, qualcuna anche bella brasata. Ecco, se gli uomini per questa categoria sono gli avanzi di magazzino, allora non c'è speranza, cioè la vedi proprio nera. Ma guarda che io sono fidanzata, come si può dire ormai? Serenamente in coppia. Sì. Però se tu, almeno io, quelli che frequento sono moltissimi gay, perché ce ne sono tantissimi, io ho tantissimi amici gay, e quelli che invece sono etero sono tutti accoppiati, sposati. Quelli rimasti sono i resi, gli avanzi di magazzino, o i resi o gli avanzi di magazzino. Quelli che nessuno si prende. Sì, quelli che hanno restituito indietro perché c'hanno una falla, e quindi tu o non vedi, o fai finta di non vedere la falla, o ti devi domandare perché quello l'hanno ridato indietro, oppure gli avanzi di magazzino, cioè quelli che nessuno ha voluto, e anche lì devi farti delle grandi domande. Ma non si possono recuperare, perché io torno a dire, guardate che la situazione è drammatica, se persino un economista ci ha fatto sopra un saggio che sta avendo un grande successo negli Stati Uniti, vuol dire che la situazione si fa drammatica, perché questi mondi, da un lato maschi, non laureati, che però potrebbero essere affascinantissimi, ma non vengono esplorate, da quest'altra massa di laureate tignose, come dici, sì, tu, Luciana. Ma infatti mi sono molto più sul culo le donne in questo senso qua, queste laureate tignose, noiose, saccenti, che non, perché non è mica detto che uno perché non è laureato sia un cretino, al contrario, magari invece ci sono più laureati cretini che laureati furbi, non è mica detto, quindi lì dipende molto dalle persone. Guarda, il tema è veramente di quelli che meritano una bella riflessione, al punto che ti chiedo di fermarti con noi e torniamo a parlarne, torniamo con la nostra Sunday Girl Luciana Littizzetto. Vi ricordo che potete scriverci e dirci se siete d'accordo con quello che lei ha detto, che le stanno sul culo di più, come dice, le laureate tignose, e potete mandarci una mail a nessuna è perfetta senza accento @radio24.it, un sms al 349-238-6666, o commentare su Twitter usando l'hashtag nessuna è perfetta. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Nessuna nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Torneremo tra poco a parlare con la nostra Sunday Girl, Luciana Littizzetto, ma adesso è il momento della domanda della settimana. Vi ricordo che potete scrivere all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it. Potete commentare sul mio amatissimo Twitter, sapete che sono sempre lì che twitto, usate l'hashtag Nessuna è perfetta e senza accento. La domanda della settimana è la domanda clou. Ho 39 anni, sono socia di un grande studio legale e come tante mie coetanee sono single. Non sono una di quelle che, siccome è stata lasciata una volta, fa le ripicche nei confronti del mondo. Ho una laurea, un master, molti interessi e il punto è proprio questo. Ho tanti interessi e non riesco a trovare un uomo che coltivi le mie stesse passioni, che abbia un background simile al mio. I colleghi che trovo interessanti sono fuori dai giochi, o sono sposati o sono gay. E nella mia cerchia di amicizie professionali trovo uomini che non mi stimolano. Per farla breve, non posso immaginarmi accanto a uno che non ha fatto studi con i miei. Non posso fidanzarmi con un meccanico. Ma troverò mai l'uomo giusto? Alessandra Perrazzelli, country manager di Barclays Bank, una delle poche donne ai vertici di una banca. Che cosa possiamo dire a questa sconfortata avvocata? Buongiorno. Allora, la domanda è una domanda che secondo me le donne si pongono in Italia, ma se la pongono anche altrove nel mondo. E la mia prima risposta, così un pochino di pancia, è quello che bisogna andare a riguardare le aspettative, e cioè a fronte di un mondo femminile sempre più istruito, che accede alle università, che accede a dei lavori che fino a poco tempo fa erano di prerogativa maschile, la domanda è: ma non è che cambiano i rapporti nella coppia? Cambiano anche quindi le cose che si possono chiedere e quelle che si possono aspettare? Quindi alla nostra lettrice direi magari il meccanico no, però andare a considerare, andare ad interessarsi dell'energia maschile presa un pochino più per quello che è e meno, diciamo, secondo schemi che appartengono forse un pochino di più a coppie che non ci sono, più oggi. Sono pregiudizi. Professor Domenico De Mazzi è professore di sociologia del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma, dove è stato anche preside della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Professore, sta cambiando proprio la mappa delle relazioni uomo-donna? Perché il problema che ci è stato segnalato da questa avvocata è un problema reale. Lo dicevamo anche prima in trasmissione, c'è stato addirittura in questi giorni è stato pubblicato un saggio di un economista americano che proprio analizza la situazione. Ci sono tante donne single perché non trovano uomini al loro livello di istruzione. Certo, ma noi dobbiamo partire da un punto di vista, da un dato. Tra 10 anni il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne sposeranno un uomo più giovane di loro. Le donne potranno avere un figlio senza avere un marito, mentre i maschi non potranno avere un figlio senza avere una moglie. Questi dati naturalmente modificano completamente la mappa del rapporto uomo-donna e lo modificano a favore della donna, cosa che per quanto riguarda la dimensione pubblica si verifica per la prima volta nella storia dell'umanità degli ultimi 10.000 anni. Ma professore, per ora le donne hanno una resistenza ad accoppiarsi con uomini che non siano dei pari grado, perché sono abituate all'idea che l'uomo deve saperne di più, deve guadagnare di più di loro. È così ancora? Ma è una fase di transizione. Naturalmente resta la resilienza delle situazioni pregresse. In passato era normale che un laureato sposasse una donna con la quinta elementare. Mio nonno era chirurgo, mia nonna aveva la quinta elementare e io sapevo un po' di pianoforte, un po' di merletto, ecco, bastava questo. E bastava che fosse una brava donna di casa, cioè diligente nell'essere casalinga. E oggi la situazione si sta rovesciando completamente. Purtroppo siete voi donne che dovrete prima o poi accontentarvi di maschi casalinghi. Ecco, la domanda per Alessandra Perrazzelli, e spero che poi possa esserci anche il professor De Masi, treno permettendo. Alessandra Perrazzelli, uno degli elementi di questa problematica sta nel fatto che i giovani maschi sono meno interessati, dice il saggio di John Birger che ho citato prima, dell'economista americano, sono meno interessati ad andare all'università. E dunque, dicevamo, abbassare le aspettative significa che la nostra avvocata deve prendere in considerazione l'idea di fidanzarsi con uno che magari ha la terza media. La vedo complicata. Che cosa si raccontano? Ma io credo che insomma, facendo gli opportuni distinguo, ci possa essere un dialogo interessante anche tra una donna colta e una donna che è andata all'università e che svolge una professione importante ed un uomo che invece porti altre caratteristiche, altre doti all'interno della coppia. Un uomo che per esempio possa essere un compagno vicino, che ascolta, un uomo che abbia una capacità di aiutarla nelle questioni di tutti i giorni, cioè cambia la dinamica della coppia. E sono molto d'accordo col professore, le donne dovranno rivedere quell'aspettativa di stare con qualcuno che in qualche modo rappresenta un modello un pochino più alto di loro. Ecco, questo secondo me scomparirà e credo che stia già scomparendo tra le donne molto giovani, la generazione diciamo di quelli nati a metà degli anni 90. Quindi siamo in una fase di transizione, penso che non bisogna ripiegarsi su se stesse ma affrontare la sfida. Oggi noi sappiamo fare tante cose, ci prendiamo tante responsabilità e credo che dobbiamo anche prenderci quella di evolvere noi stesse e di guardare gli uomini con uno sguardo un pochino diverso, un pochino più benevolo e un pochino più aperto. Aggiornato anche. Senta, aggiornato. Professor De Masi, lei disegnava uno scenario in cui, non mi ricordo più tra quanti anni, il 60% delle donne sarà più istruita degli uomini? Sì, fra 10 anni. Tra dieci anni. Ora bisogna tenere conto di questo, che la formazione, come diceva Dewey, significa arricchire le cose di significati. Significa questo, che una persona colta rispetto a una persona incolta, se va al cinema vede un film completamente diverso. Se legge un libro completamente diverso rispetto allo stesso libro letto da una persona meno colta. Ma le società non si impoveriscono se il lato maschile di fatto getta la spugna e sceglie di non istruirsi più? No, io credo semplicemente che è sempre più difficile quando c'è un forte livello. Quindi c'è un rovesciamento, la posizione gregaria sarà quella degli uomini, lei dice? Sì. Senta, io torno dalla nostra country manager di Barclays, che è appunto a capo di una importante banca. Lei è una donna e ha quasi tutti i dipendenti uomini, immagino, Alessandra Perrazzelli, una buona parte. Siamo abbastanza equilibrati in Barclays, devo dire, una preponderanza maschile ma una fortissima presenza femminile anche apicale. Ecco, nella situazione in cui appunto è una donna a capo di un'azienda, l'inevitabile rapporto diciamo capo e dipendente deve tenere conto anche di questo. Non voglio andare fuori dal nostro argomento e quindi la domanda è questa: se una donna è un capo ha più difficoltà a fidanzarsi? Sono banale e molto semplicistica, ma insomma vado al segno della cosa. Ma in Italia, devo rispondere facendo un distinguo, in Italia ancora sì, all'estero molto meno. E questo perché credo che in Italia permangano ancora questi modelli, no, di del passato, che siamo in una fase di passaggio un pochino più difficile. Vedo che all'estero invece è un pochino più semplice per le donne che sono capo in qualsiasi settore avere una vita affettiva normale e serena. Dovendo dare un consiglio finale, oltre a quello che abbiamo già dato all'inizio, Alessandra Perrazzelli, alla nostra avvocata, cioè ridimensionare le aspettative, L'altro consiglio qual è? Scegliersi una passione e vedere, che ne so, la passione può essere il nuoto, il giardinaggio, la barca a vela, e vedere se in quel settore si incontra l'anima gemella? Ma sicuramente andare un pochino fuori da quelli che sono gli schemi del proprio lavoro e dell'ambiente che è legato al proprio lavoro, e aprire un pochino di più verso delle attività che sono delle attività magari dove appunto è richiesto un certo tipo di skills diversi. Ecco, aprirsi in quel senso ed essere un po' avventurose. Grazie ad Alessandra Perrazzelli, country manager di Barclays, e grazie al professor Domenico De Masi che sono stati con noi in questa domenica. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo, Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che combatte in solitaria la battaglia contro il multitasking. Noi eccezionalmente abbiamo chiesto alla nostra Sunday Girl della settimana, Luciana Littizzetto, di occupare anche il posto solitamente riservato alla coach, che a questo punto dovrebbe dare i suoi consigli all'ascoltatrice che ci ha mandato la mail di cui abbiamo prima parlato con Alessandra Perrazzelli di Barclays e col professor De Masi. E invece noi pensiamo che Luciana Littizzetto possa gradevolmente svolgere anche il ruolo di coach. Dunque, Luciana, la lettera che tu hai ascoltato prima è quella appunto di un'avvocata che dice: ho un master, una professione brillante, ma perché non riesco a trovare un uomo? Non mi dite che mi devo fidanzare con un meccanico, perché non ci penso proprio. E il tema è serio. Onestamente, se tu ce l'avessi davanti, che le diresti? Lo vuoi veramente questo uomo? Sei sicurissima? Oppure una roba che ti dici, poi in realtà non c'hai tempo, non c'hai voglia, non c'hai testa, non c'hai spazio nella tua giornata? Perché bisogna fare spazio per far entrare qualcuno, per far entrare un amore, un affetto, un legame. E il problema di queste donne così perfette, così multitasking, così piene di insomma riconoscimenti, è che sono ingombranti, tengono tanto spazio e quindi non riescono a farci entrare nessuno veramente nella loro vita. Nel saggio che abbiamo più volte citato, questo di Jon Birger, l'autore appunto consiglia alle americane single che dicono che a New York ci sono soltanto uomini o già occupati o gay, ecco, consiglia loro di trasferirsi nella Silicon Valley, perché è in questo momento la terra più popolata da maschi, in quanto il maschio fa l'informatico e si muove verso quei territori. Se dovessi dare un consiglio a quelle che realmente, alle ragazze sui 30, 35, 40, che dicono: beh, io a questo punto vorrei trovare un uomo, avere una vita di coppia felice, secondo te in Italia dov'è che si devono trasferire? Alla presentazione dei palinsesti di Sky, dove ci siamo incontrati io e te. Perché è pieno di maschi. Ma è pieno, hai visto? Ma pieno zeppo. Sono tutti un po' impomatati, un po' con la grisaglia, un po' con giacca e cravatta, quelle robe lì che non è tanto il mio genere. Però c'era una quantità di maschio dominante quella sera lì, è impressionante. Non ho mai visto tanti maschi tutti insieme. Quindi si potrebbe provare a fare una selezione degli eventi, degli sì, eventi. Degli eventi così, dove. Però ce ne sono soprattutto tanti a Milano, forse a Roma, in altre città d'Italia un po' meno. Quindi organizzare una migrazione di single, questa è un'idea. Senta, sì. L'ultima cosa che volevo chiederti è, di recente, questi giorni, è uscito un film, The Lobster, in cui il regista immagina un mondo in cui chi vuole restare single viene costretto a soggiornare in uno speciale hotel e obbligato a cercare il partner o la partner fin quando non li trova. Se non ci riesce, questa è l'idea del film, viene trasformato in un animale che sceglie lui, no? Quindi o ti accoppi o diventi un animale e abbandonato nel bosco, a parte la, come dire, la prospettiva agghiacciante. Ma si può stare anche benissimo da soli, qualcuno deve dirlo col regista. Ma il regista teorizza proprio l'idea che si possa stare da solo, ma paventa che in futuro verremo tutti costretti o verranno tutti costretti ad accoppiarsi per il bene della società. Tu, se dovessi proprio scegliere, preferiresti trasformarti in animale come nel film The Lobster si paventa, oppure ti arrenderesti, ti troveresti comunque un compagno? Guarda, come animale sarei perfetta come iguana ultimamente, con suggestivo. Ecco. No, forse cercherei un fidanzato, devo dire la verità, perché tutto sommato qualcosa magari trovi anche, appunto, se ti adatti anche tu, se non insomma. Questa cosa dell'adattamento, ci state tornando un po' tutti, l'hai detto tu, l'ha detto anche molto, ha insistito la Alessandra Perrazzelli, che è il capo di Barclays Italia, ha insistito sul fatto che le donne devono ridurre le loro aspettative se si vogliono fidanzare. Mia nonna diceva sempre una frase che io quando ero piccola trovavo devastante, diceva: per far durare una coppia bisogna mordere l'aglio e dire che è dolce. E io dicevo: ma nonna, ma mi insegni una cosa orripilante, cioè mi insegni a abbassare la testa. Poi col tempo mi sono resa conto che è così, che per far durare una coppia bisogna ogni tanto mordere l'aglio e dire che è dolce, accettare, non aprire sempre dei dibattiti, ogni tanto sorvolare sulle questioni, perché è così, perché poi l'amore non è sempre uguale con la stessa intensità, non è che arriva sempre fitto come la pioggia che fa uscire le lumache. Certi giorni è più forte, certi giorni più debole, certi giorni lo ami alla follia, certi giorni vorresti ammazzarlo con le tue mani. Quindi è una questione di misure, no? Di adattamenti, di termometro che si deve un po' adeguare alla temperatura in quel momento, perché ci sono anche momenti della vita in cui sei particolarmente tesa e quindi non ti va bene niente, altre che invece sei un po' più conciliante. Credo che nella conciliazione, nell'adattamento, che non vuol dire sopportazione e rassegnazione, ma adattarsi, no? Si cresce come persona e si cresce anche come coppia. Questa è una dimensione certamente personale, poi c'è quella diciamo sociale, che abbiamo affrontato prima col sociologo Domenico De Masi, il quale è bravissimo lui, posso dirtelo, saluto, ma non lo conosco, sì. Ma è bravissimo. No, sono convinta che gli farà piacere il tuo saluto. E lui dice: guardate che tra 10 anni l'Italia avrà il 60% dei laureati donna. Questo cambiamento della società non ha soltanto influssi sul mondo del lavoro, che è il tema di cui normalmente noi ci occupiamo qui a Nessuna è Perfetta, ma ha influssi anche appunto nella vita di relazione, nella creazione di una società nuova. E quando ho chiesto al professor De Masi appunto se la coppia donna laureata, maschio non laureato, comunque con un'educazione inferiore, sarà la coppia del futuro, lui dice sì, e soprattutto succederà molto più spesso che le donne si sposino con uomini più giovani. Ma perché? Con maschi più giovani, ma... Perché questo a me personalmente non succede, perché io pensare di star con uno che mentre io, che ne so, facevo terza media, lui si iscriveva in prima elementare, mi fa venire l'ansia, cioè così in generale. Non però ci sono forse le stesse canzoni, Sì, oppure sai quelle che fanno il adesso non c'è più il servizio di leva, ma c'erano delle mie amiche che continuavano a fare il militare a turno perché si fidanzavano sempre costantemente con ragazzi nuovi ancora più giovani che dovevano ancora fare il militare. E quindi quello. Però sì, perché forse ti dà l'idea che quello, cioè, che ti porti più vitalità da una parte e meno problemi, meno casini. E poi cioè, l'idea che un maschio giovane ti apprezzi come donna, magari non di primissimo pelo, ti galvanizza un casino. Certo, ho una questione. Se tu dici un vecchio bacucco, non te ne frega niente. Ma perché al maschio giovane dovrebbe piacere moltissimo la donna più matura, laureata? Cioè c'è il fascino della cultura? Non credo. Se la donna matura e laureata ha anche un portafoglio di una certa consistenza, forse c'è anche quel motivo lì. Non credo. Io non mi fido tantissimo dei maschi molto giovani che amano in maniera sconfinata delle donne molto, molto più grandi. Però è più il contrario, cioè che delle donne giovani invece amino uomini più anziani, perché riconoscono la figura del papà, la protezione, l'autorevolezza. Invece il contrario per ora non funziona. Non è che, tu cerchi la madre, perché con la madre non c'hai voglia di far l'amore. Ecco, però dice De Masi che tra 10 anni invece nuove sconfinate praterie si apriranno per le MILF e ci saranno pletore di giovanotti affascinati dalla professoressa. Vedremo. In ogni caso, Luciana, ci andrà bene, eh? Ma sì, guarda, va bene anche così, cioè lì la felicità ognuno la trova dentro di sé, e questa sembra una roba da cioccolatino, però è così, e quindi forse con un'altra persona si allarga questa felicità o diventa diversa, prende delle altre sfumature, ma la potenza dello star bene è una roba assolutamente personale. Se stai male non è certo un'altra persona che ti fa stare bene. Questo siamo totalmente d'accordo. Comunque alla nostra avvocata, che appunto lamentava di essere single perché uomini alla sua altezza non ne trova, sono arrivati un bel po' di consigli anche da Luciana Littizzetto, e non mi sembra poco. Grazie Luciana, buona domenica. Cacchio, posso dirti, chiudo con questa parolaccia, alla sua altezza è già un'espressione del cacchio. Quale altezza? Cioè non c'è un'altezza, ci sei tu e c'è l'altra persona. Se tu pensi già di avere un'altezza di più di un altro, e allora lì sei perdente. Restringi di molto il campo, in effetti. Siete d'accordo? Ne volete parlare con noi a nessunaeperfetta@radio24.it? Mandateci anche, volendo, un commento su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta. Grazie Luciana, grazie, buona domenica, e ovviamente buona domenica a voi che ci avete seguito. Abbiamo parlato anche di multitasking e, come avete sentito, essendo Luciana Littizzetto il simbolo massimo della donna multitasking, non posso non ricordare anche a lei, come ricordo a me stessa e a tutti noi, che è comunque una fregatura. Buona domenica. Ciao, ciao.